Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, cominciamo a parlare di qualche meta di viaggio, magari qualche meta più o meno esotica, e cominciamo questa settimana con l'India. Vi presento il libro L'India nel cuore di Vittorio Russo, capitano di lungo corso, scrittore, che ha pubblicato questo libro con Baldini e Castoldi, 410 pagine, 20 euro. Secondo l'autore, questa è la descrizione di un'avventura della mente e dello spirito, così lo definisce infatti il suo libro, che non vuole essere un diario di viaggio, ma piuttosto la testimonianza delle emozioni che egli ha provato nel corso di un particolare viaggio, che non è stato il primo appunto in India. E troviamo molti spunti ispirati alle visite, ma soprattutto alle riflessioni che tutti gli incontri e le visite varie producono nell'autore. Per esempio, vediamo subito nelle prime pagine alcune riflessioni sulla condizione della donna in India. E allora facciamoci spiegare dall'autore qual è il senso della sua scoperta. Buongiorno a Vittorio Russo. Buongiorno. Vittorio Russo, lei a un certo punto del suo libro, quasi all'inizio, parla del mosaico di contraddizioni dell'India, di questa terra incongrua, che la fa sentire la vittima grassa, leggo dal suo libro, di un sacrificio inutile a un benessere che avverte improvvisamente superfluo, proprio perché non allinea qui. Adesso mi pare che anche gli indiani stiano cercando il benessere. Beh sì, l'India è in qualche modo uno simbolo incredibile. Ci sono contraddizioni paradossali, insomma. Però ecco, l'India della quale tutti oggi parlano, quest'India del benessere, è un'India che in realtà esiste poco. Ne parliamo in Occidente, ma in India non appare. In realtà del benessere, del boom economico degli ultimi anni, soltanto un 20% della popolazione ha beneficiato. Quindi diciamo che 900 milioni di indiani su una popolazione di 1.300.000.000 è tagliata fuori da questo filone del cosiddetto benessere. Ecco, a un certo punto lei, quando si trova nel bazar, fa delle riflessioni su un tema simile, su un tema contiguo, e cioè scrive: ho capito soprattutto che dare in India è cosa difficilissima, provoca impensabili complicazioni delle quali non si fa mai sufficiente esperienza. Ecco, perché è così difficile il dare in India? Dare in India è, ricorda quel paragone che faceva Sant'Agostino, guardare il mare col cucchiaino. Come si fa ad alimentare con una piccola carità, una piccola elemosina, un esercito sconfinato di mendichi che sono poi un tormento per gli occhi, soprattutto quando questi mendichi sono dei bambini che hanno degli occhi che sono gli occhi degli angioletti di Luca Della Robbia nella sua Cantoria. Ora, la verità è che dare è difficilissimo perché crea complicazioni psicologiche. Dai a uno però non dai a un altro, non dai a quell'altro che è subito dopo e poi un altro che è subito dopo ancora. L'orizzonte del dare in India è a portata di mano ed è infinito allo stesso tempo. È incredibile ed è terribile. Un'altra caratteristica che lei coglie dell'India è quella che chiama la forza del lievito spirituale che nutre questa gente. Che come le si è manifestata questa forza? Beh, l'India, ecco, ha una capacità di investigare in tutti gli aspetti del reale, trovando in essi una luce di spiritualità profonda. Ogni aspetto della vita in India è indagato alla ricerca di una verità sacra, superiore, come dire, una verità trascendentale. E questo magari c'era anche da noi, forse 800 anni fa, ai tempi di Francesco d'Assisi, Jacopone da Tori. Poi questo lievito spirituale da noi, con l'avanzare dei tempi moderni, con le conquiste, la rivoluzione industriale, insomma, è sfumata, è andata via. Sarebbe una follia concepire la vita in termini di spiritualità come in India. In India una persona che vive al di là del normale, cioè i famosi guru, i santoni che si vedono in giro, sono la normalità della vita, sono visti con un'attenzione particolare, sono venerati come esseri supernormali perché hanno rinunciato alla vita e hanno rinunciato a tutto della vita, ma anche agli affetti, anche alle cose vive, quello che dà senso alla vita stessa per noi, naturalmente, non per gli indiani. E quindi questa spiritualità, secondo lei, rappresenta un elemento di forza sociale, di collante sociale? Beh, che ha tentato di vedere nella spiritualità indiana un elemento, un collante per un'identità nazionale che è impossibile raffigurare nella realtà di un continente vastissimo dove c'è folla di tutto, di popoli, di religioni, di culture, di razze, di tradizioni. nazioni, anche di religione. L'India è affollata soprattutto di dei, ce ne sono secondo alcuni 330 milioni, quasi una divinità ogni due o tre indiani. Ora, questo tipo di esasperazione appartiene un po' alla visione dell'induismo, insomma. E nell'induismo si è cercato di identificare una nazione, ma in realtà credo, secondo anche quello che sostengono molti studiosi, che è più possibile raffigurare un'identità nazionale attraverso questa nuova conquista del benessere e nella proiezione futura. Rampini dice che nei prossimi 10 o 15 anni l'India sarà al vertice delle nazioni industrializzate, che produrrà e che darà all'umanità probabilmente i risultati di quelle ricerche che una generazione di trentenni dietro le quinte sta cercando affannosamente: la durata della vita, le malattie, tutto sarà probabilmente alla portata di questi indiani che ricercano appunto nell'ambito medico, in particolare in quello informatico, le conquiste del prossimo futuro. Ecco, però il suo libro ha una conclusione, diciamo, problematica, perché a un certo punto lei scrive che il teorema dell'affrancamento è dimostrabile solo in astratto, perché una larga parte della società indiana vive nella compiaciuta distanza delle sue filosofie religiose, in un letargo narcotizzante. Ecco, come mai queste preoccupazioni? Io credo che sfugga sempre, o bisognerebbe dire molto più spesso di quanto io abbia fatto nel mio libro, sfugga ai più la dimensione incredibile della popolazione indiana. Noi parliamo di un popolo di 1.300.000.000 di abitanti. Quando si dice il benessere degli indiani di oggi, ma è un benessere relativo a una fetta minima della popolazione. C'è un paese immenso con 600.000 villaggi che sono privi di acqua, di luce, degli aspetti minimi, essenziali della vita. E allora, quando io penso alla lontananza di tutta questa massa di indiani che vivono al di sotto del livello di povertà, probabilmente almeno un buon terzo della popolazione indiana, e ritengo che effettivamente il percorso da seguire sia lungo e veramente travagliato per arrivare a uno standard di benessere che riguardi tutta la popolazione. E lei ci terrà informati degli sviluppi. Grazie a Vittorio Russo, autore dell'India nel cuore. Buona domenica. Grazie a lei, dottore, e buona domenica. Si parla molto di India nel libro di Dominique Lapierre, Gli ultimi saranno i primi, La mia vita accanto ai dimenticati della terra. È pubblicato da Rizzoli, 274 pagine, 16,50 euro, ed è tradotto da Sara Arena. Questa è una sorta di biografia dello scrittore reporter francese che da molti anni, come ricorderete, si è impegnato in un'attività benefica a favore dei bambini dei lebbrosari di Calcutta. E particolarmente significativa da questo punto di vista è la parte del libro dedicata appunto al primo incontro con Madre Teresa, con la quale Lapierre inizierà quella che definisce una delle più grandi avventure della sua vita. E per non tradirsi, Lapierre destina i diritti d'autore di questo libro proprio a queste attività. Nel libro, tra l'altro, troverete tutte le indicazioni per contribuire a vostra volta alle iniziative di Lapierre a favore dei poveri dell'India. Un altro grande, grandissimo paese ci viene descritto in una maniera insolita nel libro della giornalista e scrittrice cinese Xin Ran, Le testimoni silenziose, pubblicato da Longanesi, 506 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Elisabetta Valdré. La scrittrice qui vuole trasmettere ai più giovani soprattutto la conoscenza delle fonti della storia della Cina recente, e per questo torna nel suo paese per intervistare una ventina di persone cosiddette comuni, ma che in realtà sono tutte testimoni, scrive l'autrice, dei ragguardevoli successi e dei tragici fallimenti della storia cinese. E quindi incontreremo vari personaggi: banditi, guaritrici, acrobati, cantastorie, fabbricanti di lanterne, le cui storie sono tutte inframmezzate da alcuni interludi che consentono di approfondire alcuni aspetti della Cina di oggi. Una Cina comunque che non sarebbe quella che è e quella che sta diventando, dice la scrittrice, se non ci fosse stato il passato con tutte le sue tragedie. E qui lo conferma nelle pagine che adesso vi faccio ascoltare Chan Cheng, un sopravvissuto alla lunga marcia che evoca toni che non credo che siano molto estranei al giudizio che si dà della politica anche dalle nostre parti. Ha detto di aver visto il presidente Mao. Sapeva che secondo molte persone Mao commise degli errori? È d'accordo? Posso dirle che il presidente Mao era un uomo di larghe vedute. Quando liberammo la terra per poterla coltivare, anche lui piantò le verdure. Quando tenevamo dietro alle verdure, vedevamo che anche lui era nell'orto. Se l'immagina un presidente che coltiva l'orto come un contadino? Alcune cose le trascurò, bisogna dirlo. Non tenne nemmeno d'occhio la moglie. Diceva: «Le donne sono come il tempo, non puoi controllarle». Ma era un uomo fantastico. I quadri politici di oggi sono come quelli di prima? Ovviamente no, non somigliano nemmeno lontanamente a quelli di prima. Oggi i quadri non fanno altro che mangiare, prendere, estorcere e pretendere. In passato, che fossero quadri superiori o quadri comuni, sarebbero stati puniti se avessero sbagliato. In passato i quadri erano corrotti come oggi? Pochissimi lo erano. Penso che sia perché oggi non hanno molte preoccupazioni e hanno un buon tenore di vita. Certi quadri assumono un atteggiamento sbagliato nei confronti del lavoro. Fanno qualcosina e pensano di essere chissà chi. Si ingozzano di cibo e tracannano liquore. Una cosa a cui non riesco ad abituarmi. Una volta chiesero di tenere una conferenza all'Università di Shanghai e mi invitarono a cena. Dissi: «A mangiare con voi non ci vengo. Grazie per avermi invitato a parlare». Durante la lunga marcia mangiavamo radici e cuoio e oggi ho parlato di quelle privazioni e di quelle fatiche. Se partecipassi al vostro banchetto, nessuno dei miei racconti avrebbe senso, non vi pare? Restiamo da quelle parti del mondo, e cioè in Mongolia, con il libro singolare di Vladimir Posner, un autore francese morto 20 anni fa. Il libro si intitola Il barone sanguinario, pubblicato da Adelphi, 320 pagine, 22 euro, tradotto da Lorenza Di Lella e Giuseppe Grimonti Greco. Il protagonista è un personaggio molto ma molto crudele, il barone russo di origine baltica von Ungern Sternberg, un personaggio storico, protagonista di un disperato tentativo di resistenza alla rivoluzione bolscevica. L'autore del libro si imbatte in questo personaggio quando è incaricato di scrivere una biografia in una collana di avventurieri e lo sceglie pur non conoscendone nulla, e quindi deve ricostruire il personaggio, e questo è molto difficile per le scarse testimonianze che ci sono, e la prima parte che descrive appunto questi sforzi è particolarmente interessante. Poi l'autore riesce a mettere insieme i tasselli per ricavare il ritratto di questo cavaliere d'altri tempi, nemico di ebrei e di comunisti, che si era messo in testa di poter ricostituire un'Europa reazionaria partendo dalla Mongolia, la patria dell'amato Gengis Khan. Il barone ha le idee chiare e dice: «Ormai in Europa è impossibile fare la guerra, non ci sono più eserciti, non ci sono più condottieri, leggi sociali, sindacati, parlamenti, non si può più neanche licenziare un domestico, disciplina, principi, gli ebrei e gli operai hanno distrutto tutto, tutto, tutto, tutto». Insomma, il personaggio non è per nulla politicamente corretto e viene a un certo punto definito ufficialmente pazzo, ma la descrizione nel libro è affascinante per i particolari di questa avventura militare che lo porta a tentare di conquistare il deserto del Gobi e la Mongolia, salvo poi essere catturato, processato e giustiziato. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, passiamo adesso ad alcuni libri che parlano di musica e di arte, e cominciamo con un album sui Rolling Stones. Il libro si intitola The Rolling Stones 1972 e sono le fotografie di Jan Marshall introdotte da Keith Richards, e pubblicato da Gallucci, 168 pagine, 24,90 euro, tradotto da Fabio Genovesi. Questo libro esce in occasione del 50° dei Rolling Stones ed è un reportage fotografico su una delle tournée più famose del gruppo, quella appunto del 1972, che Joel Selvin definisce nella sua prefazione come il momento più scintillante della storia del rock, con un incasso di 4 milioni di dollari, cifra mai raggiunta fino ad allora, e con grandi personalità al seguito, tra cui lo scrittore Truman Capote. E qui appunto trovate le fotografie, naturalmente non solo del concerto, ma anche del dietro le quinte di quel grande evento musicale. Una vera chicca per gli appassionati dei Rolling Stones è The Rolling Stones 50 di Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood, pubblicato da Rizzoli, 352 pagine, 35 euro, tradotto da Riccardo Bertoncelli e Franco Zanetti. Il libro non è certo un libro da spiaggia per il formato e per il peso, ma per gli appassionati una testimonianza molto importante. A parte i brevi testi iniziali, ci sono infatti 1000 illustrazioni che ripercorrono la carriera decennio per decennio della mitica band. Last night I dreamed, Un altro grande del rock è Bruce Springsteen, di cui Sironi pubblica Nebraska, curato da Leonardo Colombati, 122 pagine, 12 euro. Nebraska è una canzone di 10 anni dopo rispetto a quel famoso tour dei Rolling Stones, infatti è un disco del 1982. Un disco che viene definito qui grezzo, primitivo, diretto, violento e disperato, con testi che oscillavano tra il nichilismo e l'orrorifico, come conferma la stessa canzone che dà il titolo alla raccolta, che parla di un condannato a morte. Sentite da questo libro alcuni versi tradotti da La casa di mio padre, che naturalmente viene accompagnata dalla musica di Springsteen. Stanotte ho sognato di tornare bambino, là dove i pini crescono alti e selvaggi. Cercavo di trovare la via di casa attraverso i boschi, prima che calasse il buio. Sentivo il vento frusciare tra gli alberi e voci spettrali levarsi dai campi. Ho iniziato a correre per quel sentiero accidentato col cuore in gola e il diavolo alle calcagna. Mi sono aperto un varco tra gli alberi e lì, nella notte, la casa di mio padre si ergeva, splendente e luminosa. I rami e i rovi mi strappavano i vestiti e mi graffiavano le braccia, ma ho continuato a correre fin quando non mi son sentito tremare tra le sue. My father's house stood shining hard and bright. Altro genere musicale è quello affrontato da Ambra Radaelli nel libro La musica salva la vita. Il sistema delle orchestre giovanili dal Venezuela all'Italia, pubblicato da Feltrinelli, 158 pagine, 17 euro. Qui si parla dell'esperienza venezuelana delle orchestre giovanili realizzata da José Antonio Abreu. La descrive bene questa esperienza Claudio Abbado nella prefazione con queste parole. Quello che José Antonio Abreu ha realizzato in più di un trentennio è una cosa unica. Tutti i giovani, di qualsiasi età e ceto sociale, hanno la possibilità di studiare musica. E la formazione, così come gli strumenti, sono gratuiti. Il sistema non è però una semplice scuola di musica, ma nasce espressamente per dare l'opportunità a centinaia di migliaia di giovani di avere un futuro. Come dice Abreu, la povertà più grande non sta nel non avere un pezzo di pane o un tetto, ma nell'essere un individuo isolato, che non fa parte di alcuna comunità e che non ha obiettivi. In una parola, nell'essere nessuno. Abreu ha impostato il sistema proprio con questo obiettivo: dare uno scopo a ogni individuo, fornire a ogni giovane la possibilità di fare parte di una collettività attraverso il fare musica insieme. Caracas non è certo la città più allegra del pianeta, ma il progetto Abreu ha funzionato e ha dato vita a 285 scuole di musica che hanno formato finora 350.000 ragazzi, il tutto a partire dal 1975. Oggi il nome di questo esperimento è in particolare legato a Gustavo Dudamel, il giovane e geniale direttore d'orchestra che si era formato proprio in quella scuola e che oggi ne dirige una delle due orchestre. E un'esperienza simile a quella di Abreu si sta avviando, come dice il libro, anche in Italia. Un altro giovanissimo direttore d'orchestra, Andrea Battistoni, è l'autore di Non è musica per vecchi. Questo è pubblicato da Rizzoli, 210 pagine, 17 euro. Il rapporto con la musica che continuiamo a chiamare classica e i giovani è difficile, ma Battistoni non ha dubbi e dice: può una musica classica normalmente ascoltata da un pubblico di 4 pensionate e 4 studenti nerd di conservatorio parlare alle nuove generazioni e ai figli di internet in un'epoca così frenetica e entusiasmante? La risposta è sì. E allora, per dimostrarlo, si procede con un diretto invito ai giovani ad ascoltare la musica. Qui ci sono diversi brani nel libro che si possono scaricare e che l'autore illustra puntualmente. Poi spiega che cosa fanno il direttore, i maestri, e continua sempre a mettere a disposizione del lettore dei brani che lo stesso direttore commenta e che possono essere ascoltati per seguire le parole del giovane maestro. Continuiamo a parlare di rock e di pop, ma applicato alle arti visive. Lo facciamo con il libro di Luca Beatrice, un critico d'arte, che si intitola Pop, l'invenzione dell'artista come star, da Lee Warhol, Basquiat, Koons, Hirst e Catalan. È pubblicato da Rizzoli, 198 pagine, 18 euro. L'artista, scrive l'autore, è tradizionalmente considerato genio e sregolatezza. Un maledetto che esprime ansia e ribellione scrive con le immagini che produce al riparo del suo studio, mentre il musicista, e qui sembra di riascoltare i Rolling Stones, esplode la propria energia sul palco. Il primo artista a dare un carattere particolare, quasi iconico, alla propria immagine fu Jackson Pollock, il grande artista americano, giudicato da Beatrice come una figura di taglio, di cesura tra la concezione romana antica ereditata dalla tradizione storica e sviluppata dal romanticismo e la sensibilità contemporanea che include un elemento nuovo sviluppatosi in simultanea alla comunicazione di massa, l'artista come figura sociale che si presenta davanti ad un pubblico. Insomma, conclude Beatrice, anche una figura così isolata come quella del pittore ha bisogno del riconoscimento pubblico. Diventano allora importanti l'atteggiamento, il modo di vestirsi, le occasioni mondane a cui partecipare, il rapporto con i media e con il denaro, elementi sconosciuti prima della cosiddetta era pop. E così capiamo che cosa è diventata l'arte contemporanea anche da questi atteggiamenti. Si parte in realtà in questa analisi con un pittore non più a noi contemporaneo, e cioè Salvador Dalí, che però è individuato come il maestro di questa tendenza. Dalí, infatti, fu un pop star ante litteram, lo definisce Beatrice, eccellente venditore di se stesso che persegue la ferma volontà di raggiungere le masse per accrescere la propria popolarità. E poi naturalmente abbiamo tutti gli altri artisti che ho ricordato fino ad arrivare al nostro Cattelan, che viene definito nel libro come un personaggio della commedia dell'arte, una maschera dai caratteri predefiniti che si muove soltanto per soddisfare i propri bisogni e le proprie convenienze. Parlando di Dalí, nel libro di Beatrice si accenna al ruolo fondamentale che per il pittore ebbe la moglie Gala, il nome d'arte di Elena Ivanovna Diakonova, con la quale, scrive Beatrice, Dalí formò la coppia più strabiliante e trasgressiva nel mondo dell'arte, imponendosi come protagonisti della high society e del glamour internazionale. E di Gala Dalí esce La vita segreta, pubblicato dall'Ippocampo, 112 pagine, 15 euro, tradotto da Glauco Felici. Queste sono pagine inedite, interessanti più che altro nella prima parte, quella dedicata all'infanzia a Mosca, mentre poco o niente si parla poi del rapporto con gli artisti con cui Gala Dalí si era legata, cioè prima il poeta Paul Éluard e poi appunto Salvador Dalí. Sempre nel libro di Beatrice troviamo un altro cenno al quale mi aggancio, è quello a Mario Schifano, che viene definito come il primo artista rockstar italiano. Pittore dotato di un talento immenso e di un'altrettanta tendenza all'autodistruzione, lo definisce Beatrice. E a questo pittore, a Mario Schifani, è dedicato un libro di Luca Ronchi, Mario Schifani, una biografia, pubblicato da Giovanni Levi, 432 pagine, 29 euro. Questo libro è costruito su una serie di testimonianze di prima mano, accompagnate da molte immagini che nei vari capitoli delineano il clima nel quale matura la presenza e l'opera di Schifano e la sua attività controversa, ricca di contraddizioni, di sperimentazioni e di contaminazioni. Sentiamo da questo libro questa breve testimonianza di Fabio Mauri, un artista che nel frattempo è scomparso. Abitava a Campo dei Fiori in una casa con tante stanze una dentro l'altra, con i soffitti bassi, e lavorava molto. Faceva opere bellissime. Aveva un talento picassiano dove anche l'errore, la goccia che gli cascava dal pennello, diventava arte. Però certi lavori sembravano troppo simili, troppo ispirati a cose americane viste alla Biennale del 64, tipo Jim Dine o Jasper Johns. Come tutti i grandi talenti, quando vedeva una cosa bella, voleva subito rifarla, mettendoci quel tanto di diverso che bastava per farla diventare sua. E ricordo che a Fabio Mauri è dedicata la mostra The End, curata da Francesca Alfano Miglietta, che è in corso a Milano, a Palazzo Reale, fino al 23 settembre con il catalogo Schira. Siamo nel tempo dei festival estivi, ve ne segnalo uno insolito e significativo, quello che si sta svolgendo in Campania, giunto alla quinta edizione, che si intitola Festival dell'Impegno Civile, le terre di Don Peppe Diana, promosso dal comitato che si intitola appunto al prete ucciso dalla Camorra nel 1994. Questo festival si chiude il 3 di agosto a San Cipriano d'Aversa, e ha una particolarità, che è l'unica manifestazione italiana che si realizza su beni confiscati alla criminalità organizzata. L'esperienza di questo festival viene raccontata nel libro di Pietro Nardiello, che ne è l'ideatore e il direttore artistico, Il Festival a Casa del Boss, è pubblicato da Phoebus, 240 pagine, 13 euro. E a questo punto... Il confettino. Rimaniamo in tema di arte visiva, anzi di disegno, con i libri di Alessandro Sanna, Mano felice disegna l'aria e Mano felice dipinge la terra. Sono pubblicati da Franco Cosimo Panini e costano ciascuno 8,50 euro. Due libri per imparare a disegnare il vento, gli uccelli, il prato, i fiori, tutti i soggetti delle prossime vacanze. E ringrazio Guido Scotti in redazione e Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona settimana.